La scuola si racconta, in collaborazione con l'Ufficio Diocesano Educazione e Scuola. Siamo al secondo giovedì del mese e appunto ogni due settimane in questo spazio parliamo di scuola, la scuola che si racconta. Lo facciamo oggi con un docente che è docente di religione cattolica, ma con lui parliamo non di questo ma dell'alternanza scuola-lavoro. Do il benvenuto ai nostri microfoni al professor Patrizio Zanella, buona giornata. Buongiorno a voi e ai radioascoltatori. Il professor Zanella insegna religione all'Istituto Tecnico Statale Maria Lazzari e al Liceo Scientifico Galileo Galilei di Dolo, appunto, e lei, un po' per passione, diciamo, più che per ruolo istituzionale, si occupa dell'alternanza tra scuola e lavoro, che è una delle novità introdotte dalla legge 107, cosiddetta sulla buona scuola. Allora, professore, facciamo intanto un cappello introduttivo. Cosa vuol dire concretamente questa alternanza che adesso è per tutti e per tutte le scuole? Sì, è l'argomento che assilla in maggior modo sia le famiglie sia gli studenti e anche l'attività organizzativa delle scuole stesse. La legge appunto 107 prevede che in tutte le scuole di ogni ordine e grado sia prevista una presenza dello studente già nel mondo del lavoro in età scolastica, con una riparametrazione diversa a seconda degli istituti e anche dell'indirizzo che ogni scuola assume. Per esempio, lo studente liceale è sufficiente che maturi al termine del triennio, cioè degli ultimi tre anni, dalla terza alla quarta alla quinta, maturi un monte ore pari a 200 ore, mentre lo studente di un istituto tecnico o con altri indirizzi più di natura scientifica, il monte ore è raddoppiato, cioè di 400 ore. Concretamente come si organizzano? Credo che appunto in questo primo anno di applicazione il problema maggiore, appunto lei ha detto, è un assillo, il problema maggiore sia organizzare i calendari e anche i contatti con le aziende. Sì, è vero, perché di per sé il ragazzo, lo studente, dovrebbe essere inserito gradualmente per due o tre o quattro o cinque settimane in una realtà produttiva zonale o locale. Questi sono accordi che avvengono solo esclusivamente fra le aziende, le ditte e la scuola. Solo che cominciamo ad avere una popolazione studentesca anche numerosa e le scuole stesse hanno messo in piedi delle commissioni preposte a trovare i contatti. Già c'erano da prima sotto una funzione chiamata di stagismo, no? degli stage più o meno che venivano proposti a vari studenti, mentre adesso è diventato un obbligo, cioè lo studente che arriva alla maturità deve avere alle spalle questo monte ore di esperienza lavorativa acquisita in una realtà appunto lavorativa. Se non che le scuole, visto che è una enorme mole di lavoro che si sono trovati a gestire, hanno cominciato a chiedere anche la collaborazione delle famiglie o degli studenti, perché poi non si possono ignorare le stesse opzioni o preferenze degli studenti stessi, che vorrebbero avere non troppa distanza dalla loro abitazione nel recarsi al lavoro e quindi vogliono avere anche una proposta lavorativa che sia funzionale anche alla loro formazione, che non sia troppo lontana dalla loro abitazione. Se poi fosse anche un tantino retribuita, ma questa è un'eccezione, sarebbe ancora meglio. Ecco, come diceva quel tale professore, è vero che la somma che fa il totale, però di queste 200 ore per il liceo, 400 ore per gli indirizzi più tecnici, è chiaro che devono essere distribuite in un modo piuttosto organico, perché serve anche la continuità di una presenza, di un contatto con l'azienda. Quindi ci faccia magari qualche esempio concreto nel corso di quest'anno scolastico, ad esempio nelle due realtà che lei conosce, come sono stati organizzati, cioè lo studente per quanti giorni consecutivi sta fuori dall'aula, ma fa scuola all'interno di un'azienda. Sì, allora intanto la periodizzazione. Normalmente queste esperienze di lavoro si cerca di farle cominciare quando la scuola è finita, cioè da giugno, da metà giugno in poi, ammesso che lo studente non abbia esami ovviamente, ma vista la quantità di ore che bisogna raggiungere, in alcune scuole si comincia a ipotizzare un'esperienza di inserimento appunto in una realtà produttiva anche in aprile, anche in maggio, o in maniera tale che lo studente non abbia dopo tutte le vacanze sacrificate di nuovo per l'esperienza lavorativa, anche se è una esperienza che matura, che aiuta, che serve. Quindi ci sono scuole che la ipotizzano e l'hanno già cominciata a fare, per esempio in aprile, lo faranno in aprile e maggio, giugno. Altre scuole che decidono no, l'esperienza cosiddetta alternanza scuola-lavoro la fanno cominciare solo dal 15 giugno in poi. Poi ci sono realtà che hanno forse anche una loro continuità, cioè uno studente che si è trovato bene in uno studio commerciale ha fatto, supponiamo, 4 settimane dalle 8 alle 12 solo mezza giornata, oppure 2 settimane però di giornata intera, da 8, 12, 14, 18, poi dipende come ci si organizza. E a volte può succedere che la stessa realtà commerciale lo richieda per l'anno successivo, ammesso che sia ancora uno studente che ha delle ore da fare per raggiungere sempre questo quorum previsto dalla legge. Ecco, quindi la realtà è molto variegata, le proposte sono molto anche eterogenee e si tratta di farle combinare, di farle amalgamare. E non sempre c'è un esito felice e non sempre gli studenti raggiungono il quorum previsto, diciamo, da quello che la legge ipotizza che ci sia, perché ogni volta che una legge va a regime ci sono anche le cosiddette fasi di transizione, dei fasi di passaggio. E quindi abbiamo delle volte realtà come gli uffici pubblici che hanno anche delle norme ben precise, cioè non possono accogliere più di tot ragazzi o studenti. Poi c'è tutta una problematica legata alla sicurezza, chi è che si occupa della sicurezza di questi studenti una volta inseriti nelle realtà lavorative? Allora ci sono tematiche inerenti alla competenza che spetta alla scuola, o perché tante aziende non vogliono avere anche questo onere, chiamiamolo, di cautelarsi o di prevedere un mini corso di formazione, perché sono sempre dei, tra virgolette, lavoratori che sono dentro in un'azienda comunque di lavoro con le sue regole. Un flash per chiudere, le pare comunque che questa proposta appunto dell'alternanza scuola-lavoro sia una cosa valida oppure no? Si può analizzare in chiaroscuro. Ci sono degli aspetti fortemente positivi, nel senso che si vuole già facilitare questa presenza, questo ingresso della popolazione studentesca nel mondo di lavoro, perché non si trovi di fronte a una realtà completamente nuova, inedita, e quindi avvicina di più, se vogliamo, la scuola al mondo del lavoro. Se vogliamo vedere una delle zone più di grigio, possiamo vederlo negli indirizzi umanistici. Cosa far fare a degli studenti che hanno dal CNO 16, 17 o 18 anni, ma che hanno una prospettiva universitaria molto lunga, per cui per loro l'ipotesi del lavoro è ancora molto lontana? Possono solo fiutare che tipo di lavoro è, ma che cosa far fare in un percorso che è ancora lungo, in un contesto di lavori che cambiano rapidamente anche di anno in anno, diventa difficile, per cui il contenitore, soprattutto per gli studenti che frequentano il liceo, diventa adesso molto aperto a 360 gradi purché si rispetti la legge. Mentre il contenitore di chi fa l'esperienza all'interno di una scuola tecnica invece ha dei parametri più stringenti. Professor Patrizio Zanella, grazie per l'intervento, per la competenza con cui ci ha esposto questo argomento. Contiamo di ritrovarci prossimamente. Buona giornata. Buongiorno a voi. La scuola si racconta in collaborazione con l'Ufficio Diocesano Educazione e Scuola.